Siamo in compagnia della cantante Leonora Bordonaro, che sarà in concerto a Roma in prima assoluta il 4 aprile al Teatro Vascello per presentare il suo disco Cutuni e Lamè. Eleonora, benvenuta. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, ci racconti un po' di questo disco? Il disco del mio esordio da cantautrice ed è il mio primo progetto originale che racconta un percorso che io ho già cominciato con la riscoperta di testi di poesia popolare, ma che in qualche modo segna il punto a cui è arrivata la mia ricerca sia interiore che come dire, culturale rispetto alla poesia antica. È stata fatta in collaborazione con dei musicisti preziosissimi, prima di tutto Puccio Castrogiovanni che ha fatto la direzione musicale e ha curato il vestito di ogni brano, ha curato anche il racconto tramite le canzoni, appunto. Questa immagine della donna che dai testi antichi arriva fino a noi con i brani originali contemporanei e che ogni volta è vestita in modo differente. Una volta ci sono gli archi, una volta c'è un suono sciamanico del Marranzano, una volta ci sono il tamburo di Alsi Antico, insomma, fino ad arrivare a. Alla fine, ogni volta è un percorso differente. Senti, di quanti brani si compone il disco? Si compone di 13 brani Ok. e si compone di un racconto che parte appunto dai testi di poesia popolare antica di cui la Sicilia è ricchissima tramite le raccolte degli antropologi metà dell'Ottocento che hanno raccolto un materiale bellissimo e che raccontavano delle donne, o meglio, raccontavano i capricci delle donne, per cui viene fuori una donna capricciosa, spesso una donna vana, senza la donna è mobile, però detto in siciliano, la donna è vana e non tiene i fermi. E a poco da tutti questi passi invece a una visione sempre più intima, sempre più vera, sempre più vicina, anche forse psicanalitica, una visione che viene ribaltata, cioè mentre prima erano le donne raccontate dagli uomini che appunto avevano lasciato testimonianze della poesia popolare, adesso è una donna che viene raccontata dalle altre donne, è una donna che racconta se stessa. Senti Eleonora, è tutto patrimonio siculo? È patrimonio siculo in parte perché è patrimonio di poesia popolare, in parte perché viene da me, nel senso che i testi sono stati scritti da me, non tutti, ma quelli originali e quindi più siculo di così. Sì. Senti, rispetto anche ai testi che hai trovato, le poesie, che periodo storico coprono e che provenienza dalla Sicilia, in che zone della Sicilia? Allora, le poesie vengono tutte dalle raccolte di poesia popolare pubblicate a metà del 1800, quindi sicuramente sono precedenti. Sì. Alcune sono anonime, altre invece vengono, una in particolare viene da San Fratello, in provincia di Messina, sui Nebrodi, che è un paese molto peculiare, nel senso che è un paese in cui si parla il gallo italico. Infatti questa canzone che si chiama Lifonni, che in fratellano vuol dire le donne, in cui si parla il gallo italico che viene dall'anno 1000 più o meno, periodo in cui i normanni arrivarono in Sicilia e per scacciare gli arabi portarono coloni, soldati che venivano dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Lombardia. Dunque tutte questi dialetti insieme fusero per creare una nuova lingua che si chiama gallo italico, che non è né italiano e né francese, e che ancora viene parlata in questo paese che ha arroccato sui Nebrodi, per cui è rimasto relativamente isolato rispetto agli altri, e ancora la lingua si è conservata intatta. E dunque c'è una ricerca anche rispetto alle isole linguistiche. siciliane, così come avevo fatto prima con l'Airbrush, adesso da alcuni anni mi interessa molto questo suono del gallo italico che è veramente speciale. Eleonora, oltre alla tua voce nel disco, che strumenti ci sono? Ce ne sono moltissimi, ne ricordo due in particolare. Uno è il marranzano, cioè lo scacciapensieri, erroneamente identifica il suono tipico della Sicilia, che però invece ha una provenienza molto più lontana, perché viene suonato tanto per cui in tanti paesi del mondo ed è nato in Asia. Dunque, in alcuni pezzi abbiamo usato anche dei marranzani che vengono dalla Cina, dall'Estonia, dalla Siberia, quindi non solo siciliani. Il suono che però viene fuori è sicuramente ipnotico, sciamanico, è da trance. E questo, come dire, informa di sé tutto il disco. E poi un altro strumento fondamentale è il tamburo di Alfio Antico, cioè il tocco di Alfio Antico. In un brano che abbiamo registrato solamente voce e tamburo, registrato con una serie di giochi su un testo che è una filastrocca, una poesia, che abbiamo registrato in campagna, in un posto in campagna, alle Piane di Catania. Ed è stata un'esperienza, cioè il ritmo di Alfio Antico, il tocco della sua mano e il suono del suo tamburo e il gioco che ci ha fatto attorno a quella filastrocca, come dire, per me è un onore. Senti, Eleonora, una produzione Finisterre, Orchestra Popolare Italiana. Il concerto, sì, il disco è uscito per Finisterre Ok. e anche il concerto di cui parliamo, è una Finisterre e Orchestra Popolare Italiana, nel senso che c'è ancora come dire, la mia aderenza, la mia appartenenza all'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium, con cui ho fatto da anni un percorso di ricerca sulla poesia antica. Questa è una fase successiva, quella che sto vivendo adesso, nel senso che non solo una parte di ricerca, di raccolta di testi antichi che però sono stati musicati in modo originale, ma c'è la seconda parte che è una vita che io non pensavo di vivere, e cioè quella da cantautrice, perché i testi sono miei, quelli della seconda parte del disco, e raccontano invece una donna che riflette su se stessa. Senti, in chiusura diamo tutti i riferimenti web per saperne di più sul disco, ma anche sulla tua attività. Senz'altro. Allora, i prossimi appuntamenti, oltre a quello citato, c'è cioè il 4 aprile al Teatro Vascello di Roma, il 28 aprile a Firenze, il 25 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano e poi ancora in giro, ancora a Milano, il 24 e il 26 maggio. C'è un'attività dal vivo che diventa non solo concerto, ma ovviamente è un concerto ma teatralizzato, nel senso che ogni brano viene raccontato, contestualizzato, spiegato, è un percorso dentro un mondo femminile del sud, accompagnato da moltissimi strumenti e speriamo da molte suggestioni. Senti, c'è una pagina Facebook, un sito internet? C'è il sito internet eleonorabordonaro.com, pagina Facebook Eleonora Bordonaro e poi il disco che si chiama Culturi e Lame, Trame e Streuse di una cantastoria è disponibile su tutte le piattaforme online e anche nei negozi. Benissimo, allora chiudiamo ricordando l'appuntamento con questa prima assoluta in concerto il 4 aprile a Roma al Teatro Vascello, Eleonora Bordonaro che presenta il suo disco Cutugni e Lamè. Eleonora, un abbraccio e ci si vede a teatro. Sì, senz'altro, ti aspetto. E ti aspetto. Ciao Ciao. Federico. A presto.